Quanti bambini nel mondo si addormentano sotto un tetto di stelle? Quanti bambini nel mondo non ascoltano mai le fiabe più belle? Troppi bambini nel mondo hanno negli occhi il terrore di cieli infuocati, e uomini non saranno mai. Quei piccoli bimbi di Bucarest, sotto i marciapiedi emarginati, quei cuccioli di Rio de Janeiro, cresciuti nella violenza, e bimbi non sono stati mai. Ninani nananani nanao, putule san fan du mondo, ampe d'amor. Ninani nananani nanao, ya pago fonda se monta, dan viemine. SOS siamo ai limiti della crudeltà degli uomini. Ninanananinao, questo bimbo a chi lo do? Ninananana fedo no. Quanti bambini del Bangladesh hanno solo la colpa di esserci nati? Belle bamboline di Bangkok, violentate bambine non sono mai state. Angioletti del terzo mondo, con quegli occhioni grandi e pancino ogni giorno più gonfio, e con gli anni contati ormai. Nina, nina, nina, nina, nina, nina, oh, pur tu le san fan du monde, ampe d'amour. SOS siamo ai limiti dell'inciviltà degli uomini. Nina nanna nina oh, questo bimbo a chi lo do? Nina nanna fedo no. Per tutti i bimbi del mondo ci vuole amore, ya yeah, what?